Per monti e per valli, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono a balli le ninfe e i pastori. Per monti e per valli, bellissima Clori, già corrono, corrono, corrono a balli le ninfe e i pastori. Gialliera, gialliera, già lieta e festosa, a tutto ingombrato, la schiera amorosa, il seno del prato. Gialliera, gialliera, già lieta e festosa, a tutto ingombrato, la schiera amorosa, il seno del prato. Andianne a quel loco che invitano, invitano, invitano al gioco le grazie d'amori. Su Clori mio cuore, andianne a quel loco che invitano, invitano, invitano al gioco le grazie d'amori. Già tirsi, già tirsi distende la mano e ti prende, che teco sol vuole menar le carole. Già tirsi distende la mano e ti prende, che teco sol vuole menar le carole. Pastor, ben che degno non faccio.